Sono le 14. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi, primarie per il capo dello Stato. Io in corsa, se me lo chiede il partito. Roma rifiuti, scontro sulla discarica a Corcolle, il prefetto si dimette, incarico a Sottile. Vaticano, padre Lombardi, scoperta una persona in possesso di carte illecite. Buon pomeriggio dalla redazione Dan, Rita D'Ambrosio. Sin qui i nostri titoli subito. Un'ultima ora in apertura. Primi indagati per il crollo dei capannoni provocato dal terremoto di domenica mattina in Emilia che ha causato la morte di 4 operai. La procura di Ferrara ha iscritto 9 persone nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. E lo avete sentito nei titoli: elezione diretta del Presidente della Repubblica. Questa è la proposta che Berlusconi ha lanciato oggi nel corso di una conferenza stampa in Senato indetta dal segretario del PDL Alfano per annunciare la grande novità politica promessa nelle scorse settimane. Alla domanda di un giornalista sulla sua candidatura al Quirinale, Berlusconi ha risposto: farò quello che mi chiederà il popolo delle libertà. Ma sentiamo l'ex premier a margine. Responsabilmente, secondo quanto il mio movimento chiederà, mi chiederà e riterrà che sia utile. E unirà i moderati? Speriamo proprio di sì, perché questa è l'unica maniera per dare al paese una vera governabilità. A chi dice che state imitando un po' Grillo che risponde? No, siamo all'opposto. Grazie. Si allontana la prospettiva di far sorgere la nuova discarica di Roma nel sito vicino a Villa Adriana. Il Consiglio dei Ministri condivide le perplessità del titolare dell'ambiente Clini. L'incarico di individuare il luogo in cui far confluire i rifiuti della capitale è stato affidato a Goffredo Sottile. L'indagine della Gendarmeria Vaticana sulla diffusione di documenti segreti ha permesso di individuare una persona in possesso illecito di documenti riservati. Lo ha annunciato poco fa padre Federico Lombardi. Lo avete sentito anche nel GR delle 13. La giuria dei letterati presieduta da Massimo Cacciari ha scelto oggi a Padova la cinquina del premio Campiello promosso da Confindustria Veneto. I giurati hanno dato 8 voti alla Collina del Vento di Carmine Abate, Mondadori, 7 voti a Più Alto del Mare di Francesca Melandri Rizzoli e Il senso dell'elefante di Marco Missiroli Guanda, 6 voti a Tutti i colori del mondo di Giovanni Montanaro Feltrinelli e a Nel tempo di mezzo di Marcello Fois e Einaudi uscito alla seconda votazione. La cronaca per chiudere: fornivano cellulari e palmari a prezzi quasi dimezzati e per importarli utilizzavano una rete di cosiddette società cartiere, società che emettevano fatture inesistenti in modo da ottenere un finto credito IVA e avere un rimborso dallo Stato non dovuto. Nell'operazione della Guardia di Finanza di Padova scoperta un'evasione da 200 milioni di euro e un mancato versamento di IVA per 35 milioni. Il tenente colonnello Giovanni Parascandolo al microfono di Giorgia Mennuni. È iniziata un'attività come noi chiamiamo attività di intelligence, cioè di informazione, di acquisizione di notizie sul territorio, di monitoraggio di questi operatori che noi sappiamo molto sensibili, dove si riscontrano appunto dei prezzi di vendita finale del prodotto che sarebbero assolutamente antieconomici per un imprenditore onesto. Quindi risalendo un po' la filiera e cercando di ricostruire la provenienza di questi prodotti, siamo poi riusciti a scoprire questo sistema di frode. C'erano telefonini delle migliori marche che venivano venduti a prezzi anche circa di 200 euro inferiori rispetto a quelli che è il prezzo medio. Possiamo dire una cosa un po' fra i denti, è che anche grande distribuzione, diciamo, in qualche modo, non dico complice, ma chiude forse più di un occhio. È tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia di Carlo Genta con Palla Spicchi. Il GR torna alle 15. Io e il mio fidanzato abbiamo cambiato 4 volte casa e 10 volte auto, ma c'è una cosa che non cambieremo mai: il nostro letto matrimoniale Flu. Le cose di qualità non si cambiano. Vieni a scoprire i letti matrimoniali Flu a partire da 1300 euro. Flu.it. Sì? Chi parla? Scusi, sta guidando? Sì, ma dica pure. Noi Gruppo De Pasquale le presentiamo la riforma del lavoro in tre punti. Persone più efficaci con i servizi per l'impiego di InforGroup. L'innovazione dell'outsourcing con progetto lavoro e la piattaforma tecnologica Chiaro. Maggiore valore ai processi con San Marco Consulting. Noi riformiamo il lavoro. GruppoDePasquale.com. La visione di oggi, il lavoro di domani. Da IBM buone notizie per le piccole e medie imprese. Realizzare un vero ambiente cloud con tutte le componenti integrate in modo flessibile da oggi è più facile. C'è la nuova soluzione IBM ReadyPack for Cloud. È basata sull'infrastruttura virtualizzata e certificata con storage IBM e server IBM System X dotati di processori Intel Xeon. E comprende anche il software Smart Cloud Entry. IBM ReadyPack for Cloud, a partire da 33 euro al giorno. Per saperne di più, ibm.com/radio/it. Ehi, cos'è quella faccia? Non riesco a trovare lavoro. Perché non diventi mediatore civile? È una professione molto richiesta. In Italia ne servono 70.000. Ma non so se ho la laurea giusta. Tutti i laureati possono diventare mediatore civile. Basta iscriversi al corso intensivo di CESD, ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Voglio saperne di più. Chiama all'842-1333 o vai su www.mediatoriconciliatori.it. Ehi, deficiente, dico a te! Sì, a te che stai ascoltando la radio. Deficiente, mi ascolti? Deficiente! Deficiente? Guarda che dico a te, deficiente, che non sei altro! Noi di TimeLED non ti vendiamo nulla, tranne l'opportunità di diventare efficiente a costo zero. Con il sistema di illuminazione a LED NED System risparmi fino al 70% sulla bolletta. Non fare il deficiente, diventa efficiente. Scopri come su timeled.it. Per la tua auto, se scegli l'assicurazione giusta, risparmi e non perdi tempo. Puoi fare tutto comodamente da casa in pochi clic. Facile e veloce. Prova. Vai su dialogo.it. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione e Fabio Cantadori in regia. Eccoci a parlare di basket, penultima puntata del venerdì con Palla Spicchi. Questo vi do l'annuncio perché poi lasceremo spazio agli europei di calcio che andranno a cominciare. È tornato a trovarci Pietro Scibetta, telecronista di Eurosport e caporedattore della rivista ufficiale NBA, quindi tanti argomenti da toccare, caro Pietro, grazie. Grazie a te, ciao. Costian Peterson, come stai? Ciao Carlo, ciao Pietro, amici sportivi, buongiorno a tutti. Tutto bene? Bene, a parte l'allergia mi ha colpito oggi. Non solo te. Mi stai prendendo fra uno starnuto e un altro qui, ok? Quindi se improvvisamente dico ragazzi scusatemi un secondo, so esattamente asciugare le lacrime. So esattamente cosa intendi, coach. Ci sono due belle che ci aspettano, non due stangone qui fuori per me Pietro Scibetta, ma due belle partite. Pesaro e Filadelfia che trascinano Cantù e i Boston Celtics a casa loro di nuovo per lo spareggio. No, ovviamente io stai parlando delle due serie più interessanti, ok? Ovviamente l'Italia. Due delle serie in Italia è proprio le altre 3-0, 3-0, 3-1, questa qui è 2-2 fra Cantù che torna in casa, Pianella contro Pesaro, due partite, due vittorie Cantù in casa, due vittorie Pesaro in casa, due squadre che si equivalgono perché il campionato e il playoff dicono questo qui, e due squadre che giocano e quindi secondo me ovviamente la partita ci sarà molta tensione, però sarà una bella partita, le squadre sono allenate bene, dotate di grandi giocatori che sanno giocare, quindi io anticipo una grande partita, gara 5 fra queste due squadre, forse la più bella partita dell'anno. Sì, avevi ragione tu quando dicevi, anzi scrivevi, lo ricordavamo la settimana scorsa, che Pesaro è forse il più forte quintetto base in Italia, no. Non era così convinto Attilio Caia che era in questo studio venerdì scorso, per il quale invece Cantù avrebbe più o meno facilmente sbrigato la pratica. Dopo il 2-0 mi stavo convincendo anch'io, però dicevo non è possibile che Pesaro con la stagione che ha fatto sia così brutta per tutta la serie. Pietro? Sì, sono d'accordo sul fatto che Cantù abbia un notevole potenziale ma va ricordato anche che senza Shermadini e con Mitsov che è appena rientrato è una squadra completamente diversa. Coach, io non so se sei d'accordo, però è una serie un po' particolare, nel senso due vittorie a testa in casa con due partite, gara 2 e gara 4, anche molto nette nella sostanza, forse da questo punto di vista un po' deludente, cioè un po' più di equilibrio nelle singole partite ci poteva stare, no? Ha perso 74-47 in gara 2 a favore del Cantù, cioè più 27, e poi ieri Pesaro ha toccato più 27 anche loro in quella partita. Hai ragione che due risultati, cioè, che indica per me l'imprevedibilità della cosa, cioè l'incertezza del risultato. Mi hanno insegnato qui in Italia lo spettacolo è anche nell'incertezza del risultato. Qui un risultato più incerto non c'è, anche se dico per il fattore campo Cantù favorito per un punto, però sì, può succedere assolutamente di tutto e ben altro. Riguardo a quello che dicevi su Pesaro, poi è chiaro che la forza del quintetto base è notevolissima quando gli americani sono in serata, certo. Abbiamo visto per esempio Jumaine Jones in alcune partite pessimo, in altre partite migliore in campo, è una cosa abbastanza misteriosa, però parliamo di un giocatore che è stato in quintetto base in una finale NBA, quindi non è misteriosa, esatto. Per Jumaine Jones, insomma, è un mistero, può essere un mistero fino a un certo punto. Jumaine Jones è questo tipo di giocatore. Certo, per carità, no, rimane misterioso come un giocatore, la stessa persona a due giorni di distanza possa produrre due performance così diverse. Ma Pietro, dico questo, ieri ho visto la partita e ho visto lui molto concentrato, cioè nel senso, la faccia, il linguaggio del corpo, e anche come lui, senza il tiro, non parliamo di quello, come lui muoveva la palla. Lui, nonostante il fatto che sia una stella, un tiratore, la palla è arrivata a lui, se lui non vedeva subito una soluzione, dava via la palla con una velocità cioè frecciante, proprio subito un passaggio di inversione, che è stato per me uno dei segreti dell'attacco di Pesaro, che Jumaine Jones, pur essendo una stella, era disposto a far girare l'attacco, cioè le sue inversioni da palla da un lato a un altro, da un giocatore all'altro, hanno veramente cominciato un gioco di squadra che veramente poi metti Terenti, James White e Hackett e Hickman e compagnia, e tu hai attaccanti che possono andare a canestro. Infatti ieri Hickman è stato il primo realizzatore, quindi sì, abbiamo detto tutto. Senti coach, Milano-Venezia, ma serie mai realmente in discussione, anche se le singole partite sono state più equilibrate di queste, però il dato è che per Milano sono 11 vittorie consecutive e non succedeva da quando c'eri tu, non l'anno scorso ma nell'85-86, se non ricordo male era la Simac di Schöne e Cedric Henderson. Abbiamo vinto 16 in fila, mi ricordo quell'anno lì. Infatti dovevamo vincere le prime 23, abbiamo perso a Cantù per un punto, avevamo pareggio, palla in mano, abbiamo gestito male, figurati il gioco L. E dopo il supplementare Antonello Riva ha rubato un brutto passaggio nostro, è andato lì a schiacciare e ha vinto la partita loro, altrimenti avremmo cominciato 23-0, quindi 6-0, uno sconfitto, altre 16 in fila, eravamo 22-23-1, non mi ricordo, dopo 22-1 penso, dopo sì, 23 partite. Però in questa epoca moderna che secondo me probabilmente ha più complicazioni, quello che sta facendo la squadra adesso è veramente eccezionale, e soprattutto quando tu pensi che all'inizio dell'anno hanno avuto delle difficoltà notevoli, un nuovo allenatore, nuovi giocatori nuovi eccetera, per mettere insieme tutti i pezzi per fare questi risultati adesso, perché gli 8 in fila che hanno vinto per chiudere la stagione regolare, uno sforzo notevole, gli ha dato il secondo posto, adesso 3 in playoff eccetera. Io avevo, come scritto sulla Gazzetta, ho un po' di preoccupazione per loro, perché lo sforzo nelle 8 partite per arrivare secondi, però la pausa secondo me li ha rinfrancati, sì, un po', vero. 3-0, vero. Coach, sentiamo il tweet della settimana, tuo naturalmente. Mamma mia, eccolo qui. Shaquille O'Neal vuole diventare general manager, ma il ragazzo in carriera ha sbagliato 6.000 tiri liberi perché non aveva voglia di lavorare. Ma fai gli addominali, non c'è mai stato nessuno in grado di convincerlo tranne per un altro Phil Jackson a lavorare nella cosiddetta off season. Questo è il tweet del coach, in effetti potrebbe diventare nuovo general manager a Orlando. Ci vuole una scrivania gigante. Esatto. Ma dicono adesso che lui ha rifiutato la cosa. Cioè, per me non c'è stata mai un'offerta, una cosa così. Però insomma, Carlo, non ti avevo risposto su Boston-Philadelphia. No. Anche lì una bella serie. Io favorisco Boston perché giocano in casa, sì, però loro non hanno quest'anno il killer instinct che hanno avuto un anno fa, due anni fa, tre anni fa o quattro anni fa quando hanno vinto il titolo. E Philadelphia, una squadra che non ha nulla da perdere, potrebbe anche sbancare Boston Garden a domani sera, però una serie anche questa qui emozionante, 3-3 la settima partita, certo, certo, tutto che un piatto sospeso. Certo, Fila sarebbe sorpresa dell'anno in finale di conference, questo è indubbio, yeah, impronosticabile. Grazie coach, sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, ciao coach. Ciao. Ci fermiamo, traffico, poi di nuovo qui, 800 24 00 24, vi invito tutti ad intervenire. Strade in diretta. Per lavori si rallenta sulla 14 Adriatica tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Trafficato il tratto urbano della 24, Roma all'Aquila a Teramo, si incontra coda tra Portonaccio e la tangenziale est nelle due direzioni. Sempre per il traffico intenso, code a tratti verso la Svizzera sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Como Nord e la Dogana, i rallentamenti sull'autosole tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze. Infine si ricorda che sino alle 14.30 saranno a rischio i bus che servono la provincia di Genova per lo sciopero della TP. A Torino sciopero dei bus extraurbani delle ferrovie Canavesana e Torino Ceres sino alle 14.30 e poi ancora dalle 17.30 fino a fine servizio. Per il momento è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Palla spicchi. Marco da Como che manda un SMS: ho letto che l'anno prossimo tutti i playoff saranno al meglio delle 7 partite. È vero, credo sia una scelta sbagliata. Cosa ne pensate? Caro Marco, non sei un attento ascoltatore di questo programma, di queste frequenze, perché hai letto il giusto e non perdiamo occasione per condurre una battaglia su questa follia dell'annacquare i playoff. Io sto tutta la vita con Trinchieri, che ha detto questi saranno forse gli ultimi playoff decenti, perché poi con i nostri organici, con le nostre strutture, con le nostre difficoltà anche economiche, no, soprattutto economiche direi, secondo me non ha senso nemmeno la finale al meglio delle 7 partite, non siamo l'NBA. E peraltro, comunque io permetti, sulle serie così lunghe io ho delle perplessità anche sull'NBA. Già, voglio dirti, è stato sbagliato il momento storico per istituire le finali al meglio delle sette, perché sono state fatte nel momento in cui Siena non aveva avversari sul piano pratico, quindi si sapeva già come sarebbero andate a finire, tanto è vero che certo, è stato un evento la vittoria di Cantù di una partita. Onestamente è una cosa che non ha senso, il campione italiano non ha la dimensione per sostenere una serie di questo tipo e le squadre italiane non ce l'hanno, e questo è quasi superfluo dirlo, ma è così. Stiamo a parlare di, cioè, non basta dire facciamo il campionato al meglio del Premier League 7 per dire siamo come l'NBA, no. Sarebbe tutto un resto, tutto un contorno, tutto un mondo intorno, come cantava qualcuno, sì, che non c'è. Sì, poi rose servirebbero, comunque rose più lunghe servirebbero, insomma, delle profondità di squadra che non è il caso di andare. Assolutamente no, perché non ce le possiamo permettere. Ma sì, ma e poi non ci sono italiani abbastanza, c'è tutta una serie di problematiche che non. Guarda, in questo momento si tratta di dare, di ridare, secondo me. Poi c'è chi dice giustamente questi con i problemi economici della società sono alla fine problemi marginali. Però c'è chi insomma, io in questo momento si tratta di riaccendere la luce sulla pallacanestro, esatto, e quindi niente meglio di serie corte e estremamente incerte. Io ho visto con i miei occhi i dirigenti festeggiare una vittoria nei playoff per il semplice motivo che magari al primo turno facciamo un incasso in più, cioè andare a gara 4 non significa avere una possibilità di andare a gara 5 e magari vincere la serie, ma fare un incasso in più. Io ho il dubbio che questo allungamento delle serie al meglio delle 7 sia sostanzialmente solo stato fatto per questa ragione, e quindi non mi sembra francamente un motivo sufficiente per ristrutturare i playoff, che peraltro sono un prodotto straordinario se valorizzato, certo, nel certo, modo giusto. Così mi sembra un dilungarsi e un annacquare francamente inopportuno. Giuseppe, provincia di Como. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono tifoso cantorino di vecchia data e vorrei che mi si confermi la mia fiducia e quasi certezza su Cantù per domani e anche per le semifinali con Milano, soprattutto perché io spero nel rientro di Scherma, che ci darà qualità sotto canestro. Schermadini, ho qualche dubbio che possa rientrare, quantomeno che possa rientrare e dare qualcosa di importante. Io, se vuole, gliela confermo la fiducia, perché mi è simpatico. In realtà io avrei fiducia abbastanza, fossi in lei, sulla partita di domani, perché vincere al Pianella credo non possa essere nelle corde nemmeno di questa Pesaro in gara secca. sulla semifinale con Milano, insomma, la fiducia la do un po' meno. No, io francamente ho pronosticato un po' per gioco, un po' per scherzo, Milano campione d'Italia, per la forma attuale delle squadre in campo. Cantù, francamente, con gli infortuni che ha avuto, mi sembra si sia messa fuori gioco per il discorso titolo. Lo è stata per gran parte della stagione, però obiettivamente, anche recuperando adesso Shermadini e Mitsov, in quali condizioni non si sa, è molto difficile pensare che adesso possano battere Milano. Poi può succedere di tutto. Sì, non basta iscriverli a referto per avere i giocatori, per avere i giocatori che sono fondamentali. Ma ti faccio un esempio: ho visto Cousin dominare sotto canestro. Io credo che con Shermadini questo non sarebbe accaduto. Avrebbe giocato delle buone partite, ma non assolutamente dominato sotto canestro. Tanto sentiamo, visto che stiamo parlando di questa partita, ci sono le dichiarazioni di Dal Monte, che va con fiducia verso Cantù. Noi siamo consapevoli di andare a giocare in un fattore campo straordinario, a maggior ragione perché è gara 5, e quindi credo che si servirà una grande prova di personalità nel cercare di fare comunque le nostre cose. Siamo anche consapevoli che andiamo a giocare contro i favori del pronostico specifici e globali, perché gli obiettivi dichiarati non da me ma da Cantù sono sotto gli occhi di tutti, perché tutti si aspettano l'evento Adesio semifinale Milano-Cantù. Sappiamo anche questo, ci prepariamo, andiamo a giocare. Questo vuol dire la pressione è tua, prenditela. Ma assolutamente, no? Sì, ma ha ragione. Dice Dal Monte alla sua vecchia amore Cantù. Peraltro ha ragione anche ad avere fiducia, perché Pesaro in regular season ha praticamente battuto tutte le squadre più forti del campionato, quindi ha una squadra che secondo me è tra tutte la squadra più da partita secca che c'è. Assolutamente. E ma quindi... l'ho detto molte volte a questi microfoni già nel corso della stagione regolare, se c'è una squadra che vorrei evitare nei playoff per la quantità di talento che ha e per la sua imprevedibilità, è proprio... Se li becchi nella serata in cui loro sono in forma, è una partita difficilissima per chiunque, e a maggior ragione dove contro per Cantù, alla quinta partita di una serie che si sta rivelando molto difficile anche dal punto di vista fisico per loro. Sì. Li ho visti in difficoltà, in enorme difficoltà da questo punto di vista, prima ancora che sul discorso tecnico, per quello che non mi sentivo anche di dare fiducia al tifoso di prima. 800 24 00 24, se chiamate vi rispondiamo, siamo qui. Sassari miracolosa, invece, anche non solo per il risultato raggiunto, che è un risultato storico, ma anche per il modo in cui ha vinto queste partite con Bologna. Sì, poi chiaro che parliamo di una serie che è finita 3-0, però se andiamo a vedere poi ci sono stati due canestri allo scadere che l'hanno decisa due volte su tre, quindi non è stata una serie così schiacciante a favore di Sassari. Di cui uno incredibile, Break Dinner, sì, ma anche quello di Vanuzzo, se vogliamo, però è chiaro Vanuzzo, che Dinner... rimessa ben eseguita, esatto. Difesa discutibile, esatto. direi, perché con meno di un secondo sul cronometro forse non lasci la direttrice del passaggio, no, a un tiratore, sì, però esatto, che fa quello più o meno da sempre. Manuel, esatto, che no, è chiaro, è una bella storia. Poi dovunque alleni Sacchetti, che io ho soprannominato Robinson Crusoe, no? Perché è l'uomo delle isole, ha fatto miracoli a Capo d'Orlando, adesso fa miracoli a Sassari, però è chiaro che riesce a creare un entusiasmo. E la cosa bella di Sassari è che è una squadra che ha gioia nel giocare a pallacanestro e che la trasmette. Non sono tante, questo mi dispiace, a volte mi sembra di essere travolto da un po' troppa voglia di serietà, di far capire che noi lavoriamo. Sì, bello, però comunque... giochiamo, divertiamoci, la pallacanestro è una cosa bella e le squadre di Sacchetti questo lo comunicano. Sì, Meo lo comunica. Assolutamente. Lo comunica, sì. Dice sì, i miei assistenti sì. Guardano i video, poi cerchiamo di divertirci e poi l'allenatore conta, ma sì, fino a un certo punto riporta. Sì, ha questo approccio decisamente, come porta posso la partita, dire, poi leggero, in campo, ecco. Decidono i giocatori, ma lui lo può dire perché è stato grande giocatore, esatto. E sa come fischia il vento. Però esatto. Un omaggio a Sassari e al modo in cui ha vinto queste partite, poi lo faremo. Sì, poi lo faremo quando ripeschiamo il file. Invece Siena-Varese è stata una serie che ho trovato estremamente noiosa, perché era facilissima da pronosticare, compresa, ti dico, la vittoria di Varese in casa, in gara 3, perché a Varese interessava chiudere bene, vincere una partita davanti al suo pubblico, e quindi puntava a quella. Poi diciamo che era una serie scritta tra 1 e 8, tra serie 1 e 8, doveva andare così, è andata così. Varese si è presa la soddisfazione comunque di battere Siena, niente, c'è poco altro da dire, nel senso è una serie che doveva andare così, è andata così, punto. La squadra più forte ha vinto come doveva essere, che Varese non aveva la possibilità di essere competitiva per la vittoria nella serie, quindi è giusto che alla fine Siena vada in semifinale, però è bello che almeno Recalcati si sia preso questa piccola soddisfazione contro la sua ex squadra. Insomma. Prima di chiudere il capitolo Varese, Charlie Recalcati. Dunque, omaggio a Sassari. Sarà importante che innanzitutto il tiro alla Dinamo lo prenda e non che perda la palla sulla rimessa o cose del sì, genere. Sì, ma cercheranno un lob. Direi... E va a iniziare! E sì! E ancora il filo di fondo, un lock! E questo è un tiro incredibile, stavo guardando gli abiti. Volta. Stavo guardando gli abiti, se lo stavano dando buono. Ma che cosa è successo? Ma che cosa è successo al Palaserra di Vigni? Cominciato a 16 anni. A non dormire molto e usare il tempo fino all'ultimo secondo che si può. Osley per la rimessa, si va da Vanuzzo, tripla, entra! È entrata la tripla! La Dinamo Sassari in semifinale è entrata e anche stavolta sono bastati 53 centesimi il capitano Manuel Vanuzzo. Che finale, Stefano, che finale! Se chi ha giocato a basket sa che non c'è libidine, non c'è godimento più grande che vincere in questa maniera. Scadere. Farlo due volte consecutive nei playoff. È evento più unico che raro. Non voglio diventare scurrile. Peraltro Drake Diner, una nota così, ha giocato per tre squadre con Romeo Sacchetti, sì. Ha giocato a Castelletto Ticino, Castelletto che è la squadra Ticino. Che lo ha restituito alla pallacanestro di fatto dopo la sua malattia, poi Capodorlando, quindi adesso Sassari. Quindi, anche, è bello che questo canestro lo abbia segnato lui, visto sì. Anche il legame così speciale che c'è tra questo ragazzo e il suo allenatore. Certo. Bob Pistoia. È caduto? Volevo parlare un po' di Pistoia, che sì. Mi sembra abbia fatto un gran campionato quest'anno. Sì. È forse il miglior giovane giocatore italiano in A2, Saccaggi, il miglior americano, Albi, e forse il miglior vecchio anche, Calanda. vero. Ne parliamo dopo anche perché c'è un altro ascoltatore, si chiama Michele, che domanda se riuscirà Brindisi a risalire in A1. Dopo la borsa rispondiamo. Opzione 3,50 sui conti correnti BancoPosta. 3,50% annuo lordo per tutto il 2012. Opzione 3,50 è il deposito vincolato da collegare ai conti BancoPosta privati. Offre il 3,50% annuo lordo sui nuovi depositi da 5.000 a 500.000 euro, versati entro il 30 giugno 2012 e mantenuti fino al 31 dicembre 2012. Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, condizioni economiche e contrattuali e requisiti per il riconoscimento degli interessi consultabili sul foglio informativo relativo del conto corrente collegato presso gli uffici postali e sul sito poste.it. Dottore, ho fatto un sogno. Ero in un prato e degli uomini mi guardavano, alcuni in piedi, altri accosciati. Quanti erano? 11. E mi dicevano, dai che la sai. Li conosceva? Tutti! Zoff, Gentili, Cabrini, Oriani. Dimostra quanto ne sai di Nazionale. Vieni da IP. Con un rifornimento minimo di 30 euro di carburante e soli 4,99 euro in più, puoi avere IP Passione Azzurra, il gioco da tavolo sulla storia della Nazionale. Non restare in panchina, gioca anche tu. Conti Tardelli Rossi. Fino ad esaurimento scorte. Info e punti vendita aderenti su ip.gruppoapi.com. Regole per la spesa intelligente. Numero 24. Stare in un supermercato più di 5 minuti induce in tentazione. Entra ed esci 10 volte. Oppure segui l'unica vera regola della spesa intelligente. Entra da Eurospin. Selezioniamo per te solo prodotti di qualità al miglior prezzo. Dal 21 al 26 maggio sui nostri marchi tantissime offerte a 1 euro, come 250 grammi di burro Land e 150 grammi di salame ungherese La Bottega del Gusto. Eurospin. La spesa intelligente. Scusa Carlo, mi fai un autografo? Carlo? Ma io sono Jerry. Ah, mi pareva. Di autografi ne faccio tanti, ma la firma che mi dà più soddisfazione è quella del 5 per 1000 a favore della Fondazione Humanitas per la ricerca. Tutti meritano le migliori cure del mondo. Ecco perché Fondazione Humanitas per la ricerca merita anche il tuo supporto. Nessun'altra firma può farti sentire così importante. Per farlo, clicca su iomerito.it. Grazie. Ah, sole, mare, ragazze. Sì, ferie, caro mio. Ferie? Ma dai, datti malato. E il capo è fregato. Ti sembra così simpatico? Per accertare false malattie, assenteismo e doppio lavoro, affidati ad Axerta, l'agenzia investigativa specializzata nella raccolta prove da esibire in giudizio. Fai il tuo preventivo gratuito su axerta.it. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Borse in diretta. Torna il nervosismo e la preoccupazione sui listini del vecchio continente che invertono tutti la rotta dopo i rialzi della mattinata. Parigi cede uno 0,71%, Francoforte lo 0,45%, Londra cede lo 0,43%, a Milano il FTSE MIB e il FTSE All Share cedono poco più dello 0,7%. Sul listino principale il peggior titolo è Telecom Italia che cede oltre 3 punti percentuali, ma è debole in Europa tutto il settore legato alle telecomunicazioni, giù anche STM che cede il 2,77%. Monte dei Paschi cede 2,5%, Fiat Industrial il 2,20%. Il titolo migliore è Lattomatica, in progresso del 2,5%, Generali guadagnano 0,76%, UBI Banca poco meno di 0,5%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,25,24 sul dollaro, mentre per quanto riguarda il differenziale tra BTP e Bund siamo a 426 punti base in lieve rialzo. E per i mercati è tutto. Sono Andrea Santoni, responsabile IT della Farmigea. Il nostro gruppo farmaceutico è la seconda realtà italiana del settore oftalmologico. 4 anni fa, per le nostre telecomunicazioni, abbiamo scelto Welcome Italia, per l'affidabilità delle persone e per il servizio clienti che risponde sempre in 3 squilli. Con Welcome Italia ci sentiamo al centro dell'attenzione, proprio come lo sono il benessere e la salute dei nostri clienti. Per la cura degli occhi, affidatevi tranquillamente ai nostri prodotti, ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazioni per la vostra impresa. Scopri la differenza, chiama l'800 945 945 o visita il sito welcomeitalia.it. Cuore o ragione, calcolo o istinto, avventura o relax, berlina o station wagon, scegli la tua strada. Volvo S60 e Volvo V60, berlina e station wagon, sportività e sicurezza. Scopri la nuova gamma 60 a partire da 27.300 euro. Auto nate intorno a te. Nuova gamma 60 a partire da 27.300 euro con il contributo del concessionario Volvo. Fino al 31 maggio. Per depositare il bilancio serve la firma digitale. Se hai la firma InfoCert, la rinnovi in pochi clic su infocert.it. Ma prima che scada. Promozioni esclusive anche per chi ancora non ce l'ha. Firma digitale su infocert.it. Ti bruciano gli occhi, sono rossi e irritati. I colliri omeopatici possono darti un pronto sollievo. La loro formula li rende adatti ad adulti e bambini, anche per un uso frequente. Sempre più medici e farmacisti scelgono i medicinali omeopatici. Ti bruciano gli occhi, scegli anche tu Boiron. Laboratoire Boiron, leader mondiale dell'omeopatia, azienda familiare da oltre 80 anni. Amore, è sparito il mio portafogli? No, l'ho preso io. Ho fatto shopping. Allora è sparito quello che c'era dentro. La vita è fatta di alti e bassi. Affrontala dando sicurezza ai tuoi risparmi. Entra in Unicredit, trovi conto risparmio sicuro. Il tuo capitale è garantito e può crescere fino a un tasso del 7% lordo. Benvenuto in Unicredit. Chiama l'800 32 32 85. Messaggio pubblicitario, offerta valida sino al 15 giugno salvo chiusura anticipata. Fogli informativi in agenzia e su unicredit.it. Apri le porte a un nuovo risparmio. Opel Meriva 1003 Ecoflex, fino a 27 km con un litro. Opel Meriva, la straordinaria monovolume compatta, da 13.900 euro e a maggio fino a 4.500 euro di super bonus. Palla spicchi. Caro Pietro Cibetta, dovevamo una risposta su su Brindisi e su Pistoia. Sì. Che peraltro ha perso ieri sera gara 1 dei playoff di semifinale in casa con Scafati. Con una vecchia conoscenza della Serie A come James Thomas, che ha fatto 24 e 24 rimbalzi. Dici niente. No, Pistoia sì, evidentemente ha fatto un ottimo campionato, ha portato un altro giocatore interessante come Dwight Hardy, ha rilanciato ancora una volta Bobby Jones in una squadra di Lega 2, sempre, ma con ambizioni un po' più elevate rispetto a Forlì, e poi dopo Gregor Fuchs ha trovato lì ospitalità Jack Galland, che ancora si è reso protagonista di ottime prestazioni, soprattutto delle sue triple che arrivano sempre nei momenti giusti, quindi è evidente che Pistoia ha fatto un eccellente campionato, tanto è vero che avrebbe il vantaggio del campo in casa, anche se io lo sarò perso. Brindisi era già buona, ha avuto dei problemi fisici, è allenata da Piero Bucchi, che si porta, è strana questa cosa degli allenatori che hanno portato Milano in finale scudetto, perché come Lardo Bucchi ha ripartito dalla Lega 2, però insomma è un allenatore che ha già vinto il campionato di Lega 2, si è ulteriormente rinforzata a Brindisi con Gibson, che ha esordito credo a Scafati l'ultima partita di campionato, che è un giocatore che sta facendo la differenza, ha tutto quello che le serve per prendere l'ascensore, direi di sì. Io saluto e ringrazio la medaglia d'argento tra gli allenatori dell'anno, Andrea Mazzon, Venezia. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno coach. Senti, io ti faccio i complimenti per come avete affrontato la serie con Milano. Questo 3-0 è probabilmente bugiardo, è stata una serie per singole partite di grande equilibrio. E ti dico la verità, non ci credevo. Ma io ti dico pure la verità, noi eravamo io e sicuramente tutti i giocatori credevamo di poter... Eravamo, non dico... con presunzione questo, però avevamo la sensazione di poter vincere. Esiste, come dice Livio Proli, un problema arbitrale? Ma io non lo so, io posso parlare, io credo che se il problema arbitrale sia perché una grande squadra come Siena ha vinto 5 scudetti, no, assolutamente, perché ha vinto meritando, non a caso non solo ha vinto in Italia ma ha fatto 3 Final Four. Quindi se questo riguarda per l'alto livello, no. Credo che per le squadre normali, come sempre, almeno per noi contro Milano, c'è stata veramente una bassissima considerazione della Reyer rispetto a una squadra come l'Armani. Quindi credo che per noi un po' potrebbe esistere, però è chiaro che, come succede a Siena che ha vinto 6 scudetti, chiaramente noi siamo gli ultimi arrivati con Milano e quindi... un po' di credibilità diversa c'è. Coach, non ho molto da recriminare. Ecco, la cosa un po' che mi fa dispiacere sono gli errori tecnici, nel senso che se nella gara 1 o nella gara 2 una schiacciata appesa al ferro è il tecnico, secondo me in gara 3 la stessa schiacciata appesa al ferro è tecnico. Cioè, io faccio fatica a capire perché il metro è completamente diverso, però non ci sono assolutamente problemi e credo che gli arbitri italiani siano obiettivamente di alto livello, non a caso la Final Four è stata arbitrata dal miglior arbitro italiano e quindi mi sembra evidente che gli italiani siano tra i migliori al mondo. Tra l'altro, coach Mazzone, sono Pietro Scibetta, probabilmente ti... lo so chi sei. Esatto, ci siamo visti anche a Charleroi in occasione di una finale di Eurocup, quando lui allenava l'Aris Salonicco contro la Dinamo Mosca di coach Ivkovic, se non ricordo male. Con Fozis, esattamente. C'è qualche rammarico relativamente a gara 2 al netto delle questioni arbitrali, per come avete gestito gli ultimi possessi, non solo la rimessa di Rosselli ma anche il fatto di essere andati con Young da solo così? Beh, rivedendo la partita c'è sicuramente, perché la penetrazione di Young è stato assolutamente un fallo gigantesco, e la stessa penetrazione di Clark e di Timmy Bowers, sono stati 3 falli. Non a caso siamo riusciti a tirare 0 tiri liberi in 10 minuti. In questo non transigo, perché i ragazzi hanno fatto veramente il massimo. Poi se in 10 minuti non riesci a tirare un tiro libero, è una cosa strana. Io non so in quarti di finale, scudetto, sia mai successo. Mi piacerebbe seguire le statistiche. Abbiamo uno statistico noi che lavora per la Reyer, lo farò controllare, però credo che non ci sia un caso in Italia. Non mai, ci siano precedenti. Senti coach, una domanda, visto che a giusto titolo Venezia è una delle squadre, è una delle società che parla di progetti, no? È una forse delle poche che se lo può permettere in questo momento, che progetti avete per l'immediato futuro? Cioè, al di là del noviziato di quest'anno, che comunque vi ha proposto come ottima realtà già nei playoff, che a medio-lungo termine che Venezia ci dobbiamo aspettare? Ma credo che ci si debba aspettare una società solida, una proprietà di grandissima serietà che ha una passione, un amore per la pallacanestro direi smisurata, e credo che ci si debba aspettare una squadra che voglia assolutamente salire di livello. Questo è direi inconfutabile. Quindi il nostro obiettivo è migliorare ancora e imparare dai più bravi, che nel campionato italiano indubbiamente è Siena, quindi imparare dai migliori per capire come si può arrivare a non a vincere ma a sfiorare il vertice. Quindi mi pare di capire, coach, che non vedi Siena attaccabile nemmeno in questa stagione da Milano che ti ha appena eliminato. Ma vedendoli dal vivo credo che Siena meriti, insomma, ha sfiorato le Final Four anche quest'anno, è una squadra indubbiamente più forte, che ha certamente più esperienza di partite di alto livello, quindi credo che sia ancora la favorita numero uno. Poi anche Milano, insomma, dovrà giocare una semifinale scudetto, quindi bisogna vedere chi passerà tra Siena e Sassari, e tra Milano e probabilmente Cantù. Certo. O Pesaro, quindi la vedrei un po' prematura. Uno dei grossi problemi che abbiamo avuto è che e questo è un po' che è stata disegnata come il campionato che doveva comunque finire tra Milano e Siena, quindi tutte quelle che appunto le nuove arrivate tipo noi, sì, eravamo lì, eravamo contenti di essere lì, però in fondo insomma avevamo già fatto abbastanza, invece noi volevamo esserci per arrivare fino alla fine. Sì, legittimamente. Ancora due piccole curiosità. La prima è legata alla vostra squadra, nel senso che avete dei giocatori che comunque hanno esperienza, magari non di playoff di Serie A, però una squadra di giocatori fatti e finiti, non di giocatori da formare, giocatori da sviluppare. Quindi che tipo di squadra andrete a costruire per l'anno prossimo? E la seconda è, visto che conosci così bene la realtà greca e che è stato esaltato l'Olympiakos campione d'Europa come la squadra che ha vinto con i giovani greci, se secondo te è effettivamente così o se questo titolo dell'Olympiakos è arrivato per congiunture particolari, anche magari per un entusiasmo particolare che si è creato in questa squadra? Innanzitutto uno degli MVP, cioè Kostas Papanikolaou, lo sanno in pochi, ma è un ragazzo che ho reclutato io, da 16 anni, l'ho portato all'Aris, l'ho allenato per 3 anni e poi chiaramente è stato venduto all'Olympiakos e mi ha fatto un immenso piacere che lui abbia detto che se lui gioca in A1 eccetera perché un allenatore italiano l'ha portato a giocare a basket, e questo veramente mi ha toccato. Credo che l'Olympiakos abbia fatto delle buone scelte, credo che sia stato molto fortunato nella finale, ci voleva veramente poco perché la partita fosse chiusa, però hanno lottato, rimasti attaccati alla gara, quindi meritano il titolo. Sai, la differenza un po' è che ci sono moltissimi buoni giocatori in Grecia, possiamo dire per Peroglu al Panathinaikos, Kaimakoglu, no? C'è un grandissimo livello, perché gli istruttori di settore giovanile sono un po' come gli istruttori giovanile che c'erano da noi negli anni 80 e 90, un livello notevolmente migliore purtroppo adesso degli istruttori italiani. Quindi una volta da noi, chiaro, c'era Sergio, c'era Messina, c'erano Pilastrini, tanti che facevano settore giovanile, che possono essere allenatori di Serie A. Adesso, in questo momento, purtroppo il livello degli istruttori greci è, ahimè, non a caso sono campioni del mondo di Under 19, vice campioni del mondo mondiali, è nettamente più alto. Ecco, questo è il risultato, è quello. Istruttori migliori, giocatori migliori, punto. Grazie, coach. Grazie a voi. Grazie, alla prossima, in bocca al lupo. Grazie ad Andrea Mazzon. Palla spicchi. Subito da Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Ciao Flavio. Dunque manca, dicevamo, due belle che ci aspettano, non qui fuori ma sui campi di basket. C'è quella di Cantù, ma c'è anche o soprattutto quella di Boston, che io non mi sarei mai azzardato a pronosticare. No, nessuno si sarebbe azzardato a pronosticarla, però i 76ers comunque vada a finire hanno fatto rimangiare tante previsioni in questi playoff a moltissimi, e in questa gara 7 io penso che debba essere favorita Boston, ma Philadelphia ha veramente la palla leggera. Come valuti, come leggi la serie giocata da Miami? Chiusa 4-2 su Indiana, ma non in maniera così semplice, anzi, in maniera molto complicata. No, ma guarda, mi verrebbe quasi più da valutarla come una serie o un'occasione in generale persa da Indiana che non come un turno guadagnato da Miami. Però quando sei in una situazione del genere e perdi Chris Bosh, non solo e non tanto per il valore intrinseco di Chris Bosh, ma per la distanza abissale che separa il terzo giocatore dal quarto della rotazione, è ovvio che ogni valutazione è complicata. Questa serie, grazie anche all'accenno che abbiamo fatto ai demeriti di Indiana da un certo punto in poi, perché la serie l'avevano iniziata molto bene, sono riusciti a passarla sostanzialmente in due, e anche possiamo levare sostanzialmente. Non si dovrebbe poter vincere un titolo in due, quindi dipende dal rientro o non rientro di Bosch. Detto questo, se rientra Bosch, Miami è la mia favorita per il titolo. Ciao. Flavio, quando finirà secondo te la litania su LeBron James, se mai finirà? Nel senso che ha fatto secondo me in questa serie delle cose assolutamente incredibili, ha vinto ancora il premio di MVP, però manca sempre l'anello, però dal mio punto di vista si fa fatica a giudicare un giocatore dal titolo e basta. Non è uno sport di uno contro uno, non è che te la giochi James contro Bryant o Bryant contro Wade sulle 12 riprese chi vince più forte. Quando, se potrà mai finire questa storia attorno a LeBron James, eterno perdente, eterno secondo, eterno inconcludente? Io penso che non finirà mai, perché è un tema come altri temi che è più familiare per la discussione mediatico-giornalistica, chiamiamola come vogliamo, così come nella serie Indiana-Miami non ho sentito grandi ghirigori su come dava la palla al centro Indiana o su come ruotava sui pick and roll Miami, quanto invece sul fallo duro di qui, sul machismo di là, sulla polemica di su o sulla contropolemica di giù. Credo che il discorso LeBron James, almeno in questi termini, ovvero sia o è un eroe o è un cagasotto, sia assolutamente figlio di questa impostazione un po' superficiale, un po' facilona, che è una tentazione che abbiamo tutti. Un'ultima cosa, Flavio, San Antonio è invece quella che non ha ancora sbandato una volta, viaggia con precisione da killer. Ma direi che l'immagine di San Antonio è un'immagine che non credo si sia vista in televisione, ma subito prima che ricominciasse il secondo tempo di gara 3 contro i Clippers, una partita in cui all'inizio sono andati sotto di 24, c'erano seduti su una panchina Popovic al centro, a destra Duncan, a sinistra Parker, e sembravano tre amici in piazzetta a Capri che aspettano che arrivi l'ora dell'aperitivo piuttosto che della cena. E lì c'è tutta San Antonio, è l'unica squadra che è veramente convinta del valore di quello che fanno a livello di squadra. Questo non significa automaticamente che vinceranno nella maniera più assoluta, e quando io penso a Miami, mia favorita per il titolo, penso che se Miami riesce ad arrivare in finale, San Antonio è la squadra ideale in una finale per Miami da un punto di vista tattico, e quella meno ideale da un punto di vista mentale, perché Miami ha tante insicurezze e San Antonio ha solo sicurezze. Però per una volta non avrebbero il problema fisico che hanno invece contro molti altri. Grazie Flavio. Alla Saluti. Prossima. Ciao. Grazie Flavio Tranquillo. Adesso direi che di corsa andiamo al Giro d'Italia, che oggi sta vivendo una tappa cruciale. Arrivo all'Alpe di Pampeago, oggi finalmente solo grandi montagne. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. E come vi ho detto, oggi il Giro arriva sull'Alpe di Pampeago. A questa montagna è legata la domanda che permetterà a chi risponderà per primo via sms 349-238-6666 di vincere polsino con autografo di Ivan Basso, polsino di Radio 24. Appunto, oggi il Giro arriva sull'Alpe di Pampeago. Chi è stato il primo in assoluto a vincere una tappa con l'arrivo su quella montagna? Non Pier Augusto Staggi, che però saluto. Ciao Carlo. Ciao, come va? Come va la tappa? Tutto bene. Innanzitutto la cosa più bella è la giornata, è una montagna da affrontare, ma anche una montagna di gente che sta veramente venendo su in bicicletta, da uno spettacolo nello spettacolo. Non hai idea di quanti appassionati stanno occupando questa salita dell'Alto di Pampelago. Ricordiamo che la affronteranno due volte i corridori. La prima volta, grosso modo, dovrebbero transitare intorno alle ore 16, 15:50, ore 16, se procedono con questa andatura, e poi appunto per l'arrivo, dove si concluderà questa tappa che sicuramente lascerà il segno e che darà, credo, una fisionomia diversa alla classifica generale. Al momento c'è una fuga in corso, una fuga che è nata abbastanza presto, sono 17 corridori con Malori, Sella, Cesare Benedetti che sono all'attacco, però sono le classiche fughe per mettere qualche uomo d'appoggio davanti e poi adesso si dovrebbe scatenare la bagarre. Oggi sorvegliato speciale Ejedal, perché siamo tutti curiosi di capire quanto realmente possa valere questo corridore. Sì, assolutamente, anche perché non solo, noi siamo curiosi di capire se riesce a tenere anche su queste lunghe salite, a queste latitudini, anche se ha già dimostrato, ricordiamolo, al Tour de France due anni fa ha concluso un tour in settima posizione, ma soprattutto se sarà in grado di sopportare il ritmo che Ivan Bass e la sua squadra, la Liechtenstein-Scandal, vorranno imporre. E ci sarà anche un'altra in tattica, quella di Ivan la conosciamo ormai dall'inizio del giro, che è quella di andare in progressione a velocità molto elevate. Però ci sarà anche quella di Domenico Pozzolio, speriamo, e di Michele Scarponi, che invece cercheranno di fare una variazione di ritmo, quindi scattare. Certo. Bisogna vedere se Ejedal sarà in grado di rispondere a queste accelerazioni che noi ci auguriamo di poter vedere, perché lo spettacolo nasce quando i corridori attaccano. Chiaro. Lo scopriamo oggi pomeriggio con te. Grazie Pier Augusto, a più tardi. A dopo con Pier Augusto Stagge col Giro d'Italia. Chi vince secondo te questo giro, Pietro Scibetta? Guarda, sul ciclismo e su questo giro in particolare faccio fatica, perché non c'è stato il one man show, no? Come è successo l'anno scorso. Speriamo quindi... oggi. Esatto, speriamo oggi. Però, è stato insomma... un giro di trasferimento, esatto, fino alle tappe di oggi. Esatto, quindi adesso vediamo, insomma la verità la sapremo tra poco, ma... faccio fatica a farlo, come faccio fatica a farla sulla pallacanestro, che poi è il mio sport di riferimento. Su quelli che non lo sono faccio ancora più fatica. Benissimo, grazie Pietro Scibetta. Grazie a te. Grazie a lui e a Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia. Torniamo domani dalle 5 alle 6.